Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera e benvenuti a Mr. Kilowatt. Riprendiamo la conversazione interrotta ieri con Helmut Moroder, city manager di fresca nomina della città di Bolzano, che ha ideato il piano energetico e climatico secondo il quale Bolzano vorrebbe raggiungere l'obiettivo molto ambizioso delle emissioni zero nel 2030. Buonasera Moroder, bentornato. Buonasera. Allora, per chi non ci avesse potuto seguire ieri, vale la pena di ricordare che parliamo di un progetto che si sgrana sostanzialmente su tre filoni: l'efficienza energetica degli edifici, l'efficienza nella mobilità e poi anche una quota di rinnovabili. Ieri abbiamo visto come il Comune pensa di affrontare il tema della riqualificazione degli edifici e tra le varie strategie ne è emersa una che vale la pena, secondo me, di ricordare anche questa sera, proprio per la sua evidenza e semplicità. Il ragionamento in estrema sintesi è che se si riesce a diffondere un modello per cui si affittano case calde, cioè spese di riscaldamento incluse, si trasferisce al proprietario dell'immobile l'interesse a fare efficienza. Questo sarebbe abbastanza rivoluzionario nel mondo degli affitti. E a questo proposito ci sono anche degli strumenti che il Comune ha individuato per mettere in moto il processo, come degli studi preliminari per varie categorie di edifici che consentono al proprietario dell'immobile di farsi subito un'idea, di poterla portare anche in consiglio condominiale su quali siano le potenzialità di risparmio. Oggi però parliamo di mobilità e di rinnovabili, soprattutto di mobilità, e quindi Moroder, che cosa avete in mente per Bolzano, premesso che partite da una situazione già molto avanzata, molto positiva? Sì, esattamente, noi partiamo da una situazione positiva dove lo split modale è già molto favorevole. Un terzo della popolazione si sposta a piedi, un terzo in bicicletta, un 10% col mezzo pubblico e quindi solo un 30% usa ancora la macchina. Ma non abbiamo raschiato il fondo del barile e vorremmo andare avanti. E vorreste raschiarlo invece. Vorremmo arrivare proprio in fondo. E cosa vuol dire? C'è una decisione di fondo molto forte sul potenziamento del trasporto pubblico. Bolzano vuol dotarsi di una tramvia. Dei 40 chilometri di piste ciclabili ne vogliamo aggiungere altri 15 nei prossimi anni per chiudere completamente la rete e poi vorremmo in ogni caso ridurre ancora la circolazione delle automobili, perché questo è il problema principale. Noi pensiamo che sia realistico con un miglioramento del trasporto pubblico ridurre il numero delle automobili. Proprio il parco circolante volete ridurre, se ho capito bene. Circolante, noi pensiamo che da qui a 20 anni lo si possa ridurre di un 20% circa, nonostante la popolazione crescerà almeno di un 10% nei prossimi anni. E poi confidiamo sicuramente sulla tecnologia. Noi pensiamo che da qui a 20 anni avremo le macchine che consumano molto di meno, circa metà dei consumi attuali, perché una buona parte saranno automobili ibride, un 30% le pensiamo, le speriamo già elettriche. Però affinché questo processo, questo sviluppo virtuoso sia possibile, dobbiamo fare alcune cose. Una scelta forte è quella sui parcheggi. Noi abbiamo previsto di realizzare diversi parcheggi interrati per residenti, certo, però con l'idea che per ogni parcheggio realizzato sottoterra ne deve essere eliminato uno in superficie. Insomma, togliete le automobili dal piano terra e le mettete ai piani inferiori. Beh, mi sembra, esatto, una buona idea. Esatto, questo perché se si continua solo a fare gli interrati non si tolgono sopra, si aumenta la capacità di parcheggio, certo. E non facciamo nulla di buono alla città. Noi vogliamo più spazio, vogliamo poter ridisegnare lo spazio pubblico, darlo ai cittadini, alle piste ciclabili, alle corsie preferenziali dell'autobus, e questo ci può aiutare. E non solo, il principio dovrebbe essere questo, che la macchina deve distare dall'abitazione almeno quanto la più vicina fermata dell'autobus, perché allora metto in una concorrenza leale le due cose. Se la macchina ce l'ha sempre sotto casa, basta dover camminare 5 minuti alla fermata dell'autobus, già vince l'automobile. Okay. E in più noi vogliamo adesso sviluppare un forte car sharing insieme alla provincia di Bolzano per arrivare nei prossimi 4-5 anni proprio a 50 macchine messe a disposizione per un car sharing che consenta veramente un alto livello di mobilità ai nostri cittadini e alle nostre concittadine senza dover necessariamente possedere un'automobile. Ecco, senta, una riflessione rapida sulla parte invece di produzione energetica. Noi pensiamo veramente di utilizzare i nostri tetti, ad eccezione di quelli sui fabbricati storici, per produrre l'energia, cioè sfruttare molto il sole, fotovoltaico. Quindi molto fotovoltaico. Vogliamo anche utilizzare i nostri corsi d'acqua, ne abbiamo tre che attraversano la città, con dei impianti idroelettrici ad acqua affluente, quindi senza derivarla. Che non influiscono, vuol dire, sul corso naturale, sul flusso naturale del fiume. Esatto, cercando di garantire l'ecologia del corso d'acqua. E poi abbiamo un inceneritore il cui calore dovrà essere sfruttato in forma di teleriscaldamento per fornire il calore necessario a riscaldare la città. Abbiamo fatto un conto: se risaniamo la città, i fabbricati, come dissi ieri, energeticamente, il calore dell'inceneritore ci è sufficiente per coprire quasi due terzi della città, quindi spegnere le caldaie condominiali. Senta, ma fuori dalla provincia di Bolzano, con meno soldi, insomma, con un'anche cultura diversa, le sembra immaginabile di trasferire un'esperienza come questa? È assolutamente trasferibile. Ciò che abbiamo studiato e analizzato qui e proposto qui può essere fatto in qualsiasi altra città italiana, europea. Non ha nulla a che fare con la specificità del posto. I soldi ci sono nel sistema, li stiamo spendendo, acquistando energia, dobbiamo investirli in modo più intelligente. Grazie, grazie Moroder. Arrivederla, grazie a lei. Beh, è sufficiente fare quattro conti per rendersi conto che una famiglia di Bolzano, nel momento in cui vivrà in una casa più efficiente, quindi risparmiando sul riscaldamento e magari potendo fare a meno di una delle due automobili, potrà risparmiare circa 600 euro al mese. Beh, qualcosa su cui vale la pena di riflettere. Buona serata a tutti, l'appuntamento è per domani.